Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e ritroviamo al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ad ascoltatori. Oggi ci parli di una cosa che vi è capitata, si sono rivolte alcune persone proprio all'Adico e ce la vuoi raccontare perché, insomma, come dire, è meglio prevenire che curare, no? E quindi se si sanno alcune cose, e magari sentendole, perché no, proprio per radio attraverso la nostra trasmissione, uno può intervenire e non trovarsi un domani a dover piangere lacrime amare. Parliamo del fatto che certe volte possono capitare delle perdite nascoste, no? Perdite non rilevabili, per esempio, del nostro impianto dell'acqua, dell'acquedotto. Sì, ecco, diciamo tecnicamente si chiamano perdite occulte, quindi sono perdite non rilevabili dall'utente proprio perché non sono provocate da problemi interni alla casa, ma solitamente sono provocate da rotture appunto non rilevabili all'interno della casa, ma che sono verificate solitamente a valle del contatore e sono rotture appunto derivanti da eventi accidentali, quindi fortuiti, involontari, che non dipendono ovviamente dall'utente, dalle famiglie. Devo dirti, Francesco, che non so anch'io il perché, ma in queste ultime settimane, anzi in questo ultimo mese, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni. Guarda, l'ultima persona che si è presentata da noi è arrivata, sorrido, perché poi alla fine anche la persona stessa che quando si è presentata a noi era sì agitata, però ha detto: io sono tornato dalle vacanze e mi sono trovato una bolletta da 6.000 euro per l'acqua. Chiaramente sono rimasto di stucco, chiaramente ha coinvolto anche gli altri inquilini del condominio, perché è arrivata solo tre famiglie e per tutte e tre insomma è arrivata questa bolletta da 6.000 euro da dividere in tre. E chiaramente tornare dalle vacanze e trovarsi una bolletta di queste dimensioni chiaramente fa paura. Abbiamo un medico che è venuto qua, anche lui abbastanza disperato, con una bolletta da 10.000 euro, Francesco, per sempre per consumi idrici, e ne abbiamo avute anche tantissime altre segnalazioni, per cui vogliamo dare alcuni consigli. Allora, per entrambi i casi, quindi per queste due soci che si sono presentati di recente, quindi 6.000 euro e 10.000 euro, è stata appunto rilevata una perdita occulta. Quindi praticamente cos'è successo? È successo che per diversi mesi, forse anche per un anno, senza accorgersi, le tubature hanno perso acqua, hanno lasciato scorrere acqua all'esterno, e per colpe non dovute chiaramente all'utente stesso, e quindi chiaramente registrando un elevato consumo di acqua, fino ad arrivare delle bollette esageratissime come queste. Il problema però è uno e unico, e per cui adesso lanciamo un appello a tutti, a tutte le famiglie, a tutti gli utenti, ovvero se la persona non ha fatto l'assicurazione contro le perdite occulte, in quel caso il gestore non può fare niente, deve chiedere i soldi all'utente stesso. Per questo anche appunto alle persone, le persone che sono rivolte a noi e che non avevano l'assicurazione per perdite idriche occulte, si troveranno costretti comunque a pagare quegli importi incredibili ed elevatissimi. Chiaramente noi, il nostro intervento è stato fondamentale per chiedere una rateizzazione e per cercare di arrivare a delle cifre nelle quali non vengono comprese le more e sanzioni varie. Però ecco, quando non si ha questa assicurazione, si rischia veramente di dover pagare delle bollette allucinanti come queste. Ecco, diciamo che quando capitano queste cose, poi le aziende che forniscono l'acqua verificano effettivamente che non sia il contatore rotto o cose di questo genere, che c'è veramente la perdita prima di pretendere i soldi, penso. Sì, allora diciamo che l'azienda comunque ti fornisce l'acqua, in realtà registra solo il consumo, può registrare anche un consumo anomalo, al che a quel punto dovrebbe essere dovere dell'azienda avvertire comunque l'utente che c'è un consumo anomalo, però in realtà l'azienda manda la bolletta per i consumi che sono stati registrati. Ora sta all'utente a quel punto dire: ma io non posso aver consumato tutti questi metri cubi d'acqua, e l'utente che ha l'assicurazione, la famiglia che ha l'assicurazione, semplicemente deve compilare un modulo nel quale si dice appunto che quel consumo non è dovuto alla famiglia stessa, ma è dovuto appunto evidentemente a una perdita occulta, al che a quel punto l'azienda chiaramente manderà dei propri tecnici, i quali controlleranno che davvero si tratti di perdita occulta. In quel caso, se c'è l'assicurazione, nessun problema, allora non viene chiesto chiaramente nulla alla famiglia, nulla almeno di quello che si è perso in maniera non voluta dall'utente stesso. Chi non ha l'assicurazione invece non ha niente da fare, può anche dimostrare che la perdita è occulta, però non avendo l'assicurazione dovrà comunque pagare. Quindi insomma, visto che l'assicurazione veramente, noi facciamo un esempio con Veritas, che è l'azienda che fornisce praticamente una grandissima fetta della provincia di Venezia, e in quel caso abbiamo delle cifre che possono variare dall'1 euro al 2 euro al mese come costo dell'assicurazione. Vale dunque la pena farlo. Il problema base è che tanti non lo sanno che si può fare, certo. Quindi quando si trovano direttamente con la bolletta a casa ormai è già troppo tardi, probabilmente lo faranno per l'anno dopo, però intanto ormai avranno una bolletta esagerata da pagare. Magari ecco, un consiglio che si può dare è quello di controllare per ogni tanto un'autolettura per vedere se ci siano dei consumi anomali. Chiaramente noi invitiamo anche le aziende a fare maggiore pubblicità intanto dell'assicurazione e anche a essere attenta anche loro magari a fare alcuni controlli sulle tubature o comunque alcuni controlli specifici, in modo che queste cose non accadano il meno possibile, perché veramente alla fine quando accadono arrivano delle bollette che sono anche difficili veramente da affrontare. Certo, devo dire che personalmente anch'io non controllo mai quanta acqua consumo, se non una volta all'anno, però effettivamente è una cosa che andrebbe fatta un po' con più assiduità, insomma, o regolarmente andare a vedere, sì, se il nostro consumo è normale. Esatto, tra l'altro ecco, buona norma sarebbe farlo per tutte le forniture, perché anche per non avere sorprese anche per quanto riguarda energia elettrica e gas. Ogni tanto magari un piccolo controllo al contatore, una famosa autolettura diventa fondamentale per evitare che le aziende facciano richiedano soldi in più, importi maggiori rispetto a quelli richiesti, certo. Addirittura importi minori per poi andare nel futuro a richiedere quello che manca. Ecco, quindi oggettivamente non è facile, però insomma una controllatina ogni tanto ai propri consumi può essere sicuramente vantaggioso per tutti. Vabbè, teniamo a mente questi importanti consigli grazie all'Adico, grazie a Gianluca Codognato, che ritroviamo la settimana prossima. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.